10 anni di formazione dalla parte giusta della barricata. La particolarità che abbiamo un po' riscontrato e di cui abbiamo anche parlato 2 settimane fa, che si tratta di un libro collettivo, ci sono vari contributi che approfondiscono varie tematiche degli ultimi 10 anni, che hanno fatto la storia di questi ultimi 10 anni qua a Milano. Volevamo un pochettino chiedervi di parlarci di come questo libro nasce. Ci avete anche un po' già introdotto perché siete passati alla stampata, perché avete fatto questa scelta, come avete scelto le tematiche e soprattutto anche perché come siete arrivati a chiedere i contributi per le tematiche specifiche. Se ci volete un po' raccontare come è nato questo libro. Davide? Ma allora, il libro nasce un po' dalla voglia di coronare 10 anni appunto di esperienza che, per esempio, non ho vissuto tutti personalmente, ma alcune delle persone qui presenti sia in redazione sia del collettivo ZAM invece hanno visto dal principio. La scelta della carta stampata è un po' quella di valorizzare quello che è il libro, che comunque è un oggetto che continua giustamente e non vogliamo mollare un oggetto che dà anche un po' delle emozioni fisiche riuscendolo a sfogliare, qualcosa che un sito non potrà mai dare, la quotidianità, poi noi interveniamo anche sui social, ma se fare un passaggio sulla carta stampata anche per delle edizioni particolari, se fare un foglio periodico, se fare delle riviste per delle occasioni particolari, degli eventi, delle iniziative di movimento che potevano valer la pena raccontare con qualcosa che rimane in mano, la forza del libro è anche quella di poter essere passato di mano in mano. E appunto, il libro permette di contattare il vicino di casa e dirgli ho qualcosa da darti, cosa che, per esempio, poi io sono un boomer, quindi nonostante sono fra i più giovani, quasi, insomma, comunque sono abbastanza giovane in redazione, sono fra i più incompetenti sul piano informatico, quindi con qualche sforzo cerco ogni tanto di mandare degli articoli alla mia rubrica, ma invece avere un libro in mano è qualcosa che, insomma, è riconosciuto come una ricchezza e ti permette poi di scambiare quattro chiacchiere e valorizzare i contenuti di questo testo. Poi, appunto, i contributi sono stati scelti un po' in modo spontaneo, nel senso che sulla base dei filoni tematici che venivano seguiti in questi anni dalle varie persone, alcuni della redazione, qualcuno sono contributi esterni, però diciamo le collettività un po' vicine alla piattaforma, poi magari Matteo entra un po' più nel dettaglio rispetto a questo, che viene meglio. Le collettività, insomma, gli è stato chiesto di raccontare un po' la loro esperienza, no? Perché l'esperienza di Milano in Movimento si intreccia con quella di diversi collettivi milanesi, centri sociali, e quindi è stato chiesto di raccontarla, perché è parte di Milano in Movimento in realtà. La storia di diversi spazi sociali della città. Vuoi aggiungere qualcos'altro, Teo? Mi sa che ti tocca. Inizia l'aneddotica. No, allora, praticamente ha già detto tutto Davide, quindi lancio lì qualche ricordo e qualche riflessione. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è che Milano in Movimento e ZAM nascono nello stesso anno, probabilmente non a caso, perché ZAM viene la sede definitiva di ZAM, perché poi con Macio, quando qualche giorno fa parlavamo della vicenda di Macao, ci siamo ricordati che quel posto fu attraversato da una TAZ in tempi non sospetti. C'era ancora la giunta Moratti, promossa da alcuni sogg dei soggetti che poi avrebbero dato vita all'occupazione definitiva di Via Olgiati. E niente, ci ricordavamo di noi nei sotterranei a cercare l'allaccio dell'acqua che non c'era. 2010, 2010, Zamracaia. ottobre 2010, Ma al di là di questo, l'anno cruciale è un po' il 2011. Olgiati viene occupata a gennaio e Milano in Movimento inizia le sue trasmissioni, se così possiamo dire, a ottobre, come ricordavamo in radio, in occasione degli scontri di Piazza San Giovanni al corteo degli Indignados contro le politiche d'austerità. Una cosa carina che mi ricordo è che il primo ufficio di Milano in Movimento, che poi, come spesso capita, non è stato mai utilizzato, perché in verità poi siamo un esercito di cialtoni a cui confronto l'Armata Brancaleone probabilmente è un esercito serio, è stato proprio costruito in via Olgiati, quindi grande settimana di lavori, imbiancamento, pulizia, per una saletta che non è mai stata utilizzata, perché ovviamente poi si preferiva andare a fare le riunioni in posti più caldi, magari con maggiori scorte di alcolici di buona qualità e così via. Però ZAM ha ospitato il primo luogo fisico della redazione di Milano in Movimento, che secondo me non a caso era dietro al bar, il famoso bar di Via Olgiati. Non lo so, sul perché un libro, come dicevo, ha già detto tutto Davide. Io, come ho già detto in radio, da libraio posso dire che è un po' il feticismo dei libri, e penso che sia un elemento anche di qualità da avere per le mani nell'epoca un po' dei social, dell'informazione che viene immediatamente dimenticata, cioè il trend topic di una settimana fa già non ce lo ricordiamo più, invece il libro è qualcosa di solido. Un'altra cosa significativa che mi viene in mente è che sia ZAM che Milano in Movimento hanno superato la boa dei 10 anni di vita. Il che a Milano, che ha una tradizione di durata degli spazi sociali e anche delle realtà di autogestione molto molto breve, secondo me è un passaggio estremamente importante. In qualche modo diventiamo, tra virgolette, qualcosa di storico per il movimento di questa città. C'è anche Niccolò, se lui vuole aggiungere qualcosa. Non so se ci avete delle curiosità o delle cose da chiedere specificamente, se no andiamo avanti a flusso. Quindi, per insistere sulla materialità del libro, ci tenevamo e l'abbiamo ribadito in tutte le occasioni in cui c'è stato modo di parlarne. Abbiamo la necessità di restituire a quella vasta area che si può chiamare anche comunità, che è un termine che in questo luogo ha un particolare significato, ma che su cui ci ragioniamo e su cui in qualche modo ci interroghiamo da molti anni, a questa vasta area, a questa comunità politica che si in qualche modo si riconosce attorno a delle realtà specifiche fisiche e in qualche modo anche attorno alla realtà di Milano in Movimento, volevamo restituire appunto un oggetto fisico, un qualcosa in cui riconoscersi e in cui riconoscere anche la storia di quel percorso, di questa comunità, nel senso che appunto nell'era dei social, nell'era dell'immaterialità dell'informazione e delle esperienze, restituire invece un qualcosa che mette in qualche modo nero su bianco un'esperienza, la trasmette materialmente attraverso un lavoro grafico, editoriale, un oggetto fisico che tu hai lì, era una cosa per dare un po', come dire, per dirci, insomma, facciamo anche qualcosa di serio. Veniamo da lontano e questa roba qua ci permette di dire che potremo anche andare molto più lontano, insomma. Quindi per noi era importante fare questo passaggio, mettere un punto e dire ok, abbiamo fatto qualcosa in questi 10 anni, in questi 10 anni a Milano abbiamo detto qualcosa, poi potremo entrare nello specifico sulle aree tematiche, sui temi che questa opera affronta, su cui c'è da aprire un altro, tutta un'altra discussione sul perché, per esempio, manchi il tema del lavoro, che era una cosa su cui Teo insisteva parecchio, no? Che io invece ho declinato in un'altra maniera, cioè, o quantomeno mi sono spiegato in un'altra maniera, per cui invito in realtà poi le realtà a fare un'indagine al proprio interno di quella che una volta veniva chiamata un'autoinchiesta sulla composizione sociale, lavorativa dei propri militanti, che spiegherebbe anche, e secondo me spiega molto, della trasformazione di questa città vissuta attraverso questi spazi e queste realtà che vivono attivamente la militanza politica e l'impegno in città. Quindi secondo me sarà interessante, può essere un suggerimento che faremo, che potremo fare nel futuro, andare a indagare quella nuova composizione sociale di questi spazi, no? E anche per capire quali sono le nuove fratture conflittuali che si possono creare all'interno quantomeno dell'intervento politico che queste realtà producono in città. Quindi, aperta questa parentesi, la richiudo, cioè, volevamo dirci e dire a tutti quanti: noi ci siamo, abbiamo fatto qualcosa in questa città negli ultimi 10 anni, leggiamoci, guardiamoci, vediamo da dove veniamo e vediamo un po' dove potremo andare, insomma. Dire un po' una sorta di memoria che si fissa un pochettino di più rispetto già anche a quello che dicevi dell'epoca del digitale, dove tutto va molto veloce, e quindi è carina come idea, guarda cosa abbiamo fatto finora tutti insieme, e mi piace anche questo aspetto della comunità, che in effetti è vero, qua ZAM è altamente importante e prioritario. E tu hai un po', sei andato un po' più addentro della questione, loro sono rimasti un po' più vaghi, però infatti io mi chiedevo un po', sfogliando le pagine, leggendo alcuni contributi, perché determinate tematiche sì, però per esempio il lavoro non è stata toccata come tematica specifica, ma a un certo punto compare uno dei momenti storici importantissimi qua a Milano, che è Expo 2015, che la tematica del lavoro è stata ampiamente snocciolata da tutti noi. Come mai? E anche magari se c'è qualche aneddoto, qualche retroscena su questo tipo di scelte, perché il lavoro sì, il lavoro no, o un'altra tematica sì, un'altra tematica no. Inizio io. Allora, io e Nick abbiamo avuto un duro scontro teorico. No, sto scherzando. Allora, io in verità inizialmente ci tenevo che in qualche modo la questione del lavoro fosse inserita, ammettendo anche che le nostre collettività in qualche modo l'hanno sempre affrontata tangenzialmente, nel senso che alcune lotte, alcune situazioni le abbiamo attraversate, le abbiamo anche determinate, come può essere anche il primo maggio no Expo, ma poi il primo maggio del 2016 e così via, ma sicuramente non è uno dei nostri temi distintivi. Tant'è vero che nelle tematiche del lavoro io mi ero immaginato di mettere dei contributi dei lavoratori dello spettacolo, dei rider, dello sciopero Amazon, quindi cose un po' che in qualche modo esulavano dalle nostre collettività. Poi, ovviamente, questo l'ho già detto in radio, vabbè, mi ripeto, questo libro non ha l'ambizione di essere l'enciclopedia del movimento milanese, quindi non troverete un sacco di cose, troverete delle robe che più o meno ci riguardano, che abbiamo attraversato, manca per esempio l'esperienza di Macao, manca l'esperienza del cantiere, dell'autonomia diffusa, perché non avevamo l'ambizione e anche un po' l'arroganza di parlare per altri. Sul lavoro ci siamo interrogati e alla fine diciamo che è passata la linea di Nick. Adesso vi passo il microfono perché in qualche modo, visto che ha lanciato lì la suggestione, chiudiamo il cerchio e ci dice quello che pensa. In realtà questo lavoro qua, questa opera qua, ha quantomeno un pregio, cioè che racconta qualcosa che viene raccontato dalle parole stesse di chi fa le cose, di chi vive le cose, ok? Se vogliamo è un po' povero dal punto di vista dell'intervento teorico, dell'analisi, della riflessione, cioè mancano i grandi voli pindarici che sono soliti di chi fa filosofia, ricerca, analisi e riflessione sulle cose, però ha il pregio di raccontare le cose vissute, le esperienze vissute e i punti di vista vissuti di chi fa le cose, quantomeno dal punto di vista di movimento. Per questo mi viene da dire che, come dire, in una città come Milano e nelle trasformazioni che ha vissuto la città negli ultimi 10 anni soprattutto, che sono stati assolutamente essenziali nella storia di questa città, il punto di vista del lavoro, il tema del lavoro in qualche modo, in realtà forse è il fatto che sia che manchi come tema in sé, forse è dovuto al fatto che è talmente scomposto in un rivolo di biografie e di vissuti personali, che racconta proprio in realtà questo fatto stesso, il fatto che, cioè, il lavoro non è più quello dipendente, ok? Io provocatoriamente provavo a ribattere al vetero marxismo di Teo, dicendogli: ma guardate intorno, tra le persone che conosciamo, fai un sondaggio di quale tipo di inquadramento lavorativo c'è e vai a vedere che il lavoro dipendente è un'infima minoranza. Quindi c'è, cioè, questa, anche all'interno delle nostre comunità, cioè, prevalgono tutta quel florilegio di figure lavorative anomale che sono frutto della devastazione del mondo del lavoro che c'è stata nelle riforme che hanno fatto tutti i governi di centrodestra, centrosinistra, sopra e sotto, e quindi questo è il risultato. E quindi sarei curioso di chiedere qua adesso a tutti quanti: tu cos'hai, cosa fai? E sono sicuro che c'è, vabbè, la precarietà è assolutamente, cioè, il trade union, cioè quello che ci unisce tutti quanti, ok? E sono convinto che gran parte delle persone qua presenti non hanno idea di che cosa sia una tredicesima o le ferie o malattie pagate, per esempio. Quindi c'è, e che quelli che ce l'abbiano siano delle minoranze, e quindi questo racconta, no, già di per sé che cosa significa affrontare il tema del lavoro. E quindi, come dire, cioè, questo è il dato di fatto. Quindi questo spiega per esempio la totale scomparsa del sindacato o di qualsiasi tipo di sindacalizzazione all'interno delle biografie di tutti i compagni presenti e di tutti i compagni coinvolti nelle nostre realtà. E quindi, cioè, questo è... sono varie sfumature di come il tema del lavoro di come il tema del lavoro possa rientrare dentro una narrazione di quello che è successo negli ultimi 10 anni. Quindi questo io ho risposto, diciamo, alla domanda. Sì, una piccola cosa da aggiungere, che comunque questo dibattito che abbiamo avuto all'interno della redazione mi ha sviluppato due riflessioni. La prima è che la nostra generazione, dico quella mia e di Nick, quelli che per intenderci nelle varie ondate di generazioni che fanno militanza politica, ha fatto il G8, siamo in qualche modo una generazione tra virgolette schizofrenica, nel senso che noi abbiamo visto la fine del vecchio mercato del lavoro garantito e l'inizio, oppure lo svilupparsi in modo esponenziale, del mercato precario. E poi la precarietà è diventato un dato esistenziale, no? Anche per quelli che erano i lavoratori garantiti. La seconda riflessione, e la apro a voi, perché secondo me è importante farla, è che abbiamo notato che le lotte degli ultimi anni, mosse da generazioni giovanissime, quindi Friday for Future, non una di meno, le lotte sulle questioni della migrazione, non parlano di lavoro. Forse perché, in qualche modo, le nuovissime generazioni hanno introiettato e danno per scontato che le loro posizioni lavorative saranno precarie. Quindi cambiare 5 lavori in un anno, mentre per me, Nicolò, probabilmente è una roba folle, criminale, per un giovane nato nel 2001, nel 2002, è una cosa assolutamente normale. Quindi cioè, è una normalità che non viene neanche riflettuta eccessivamente, no? Si passa da fare il distribuire le pizze con Deliveroo, a magari fare l'hostess alla fiera dell'artigianato e via via, senza porsi particolari questioni, perché è una cosa che viene data già per assodata, come se fosse una verità assoluta, no? Io entro nel mondo del lavoro, in un mondo del lavoro non garantito, iper precario, iper direi ricattato, e in fondo non ho neanche il ricordo di quelli che potevano essere le lotte sindacali, la sindacalizzazione, la rigidità del mondo del lavoro di fronte a quel mondo del lavoro, quindi capitale e lavoro e così via. E questa è una riflessione che buttiamo lì in questa presentazione, che secondo noi potrebbe essere interessante. Sì, adesso senza addentrarmi ancora ulteriormente in questo dibattito, poi dato anche la grande presenza di molti giovani, e se sarà il caso, insomma, di discutere su questo tema, sulle ragioni della mancanza, insomma, di protagonismo delle lotte del lavoro, magari se succederà nel dibattito si vedrà. Io invece volevo aggiungere solo una nota, cioè il fatto che un momento in cui forse si incontra nel testo le lotte che riguardano tutto ciò che è un po' il mondo della precarietà del lavoro, oltre a il momento di Expo 2015, dove appunto comunque una generazione di studenti e studentesse ha detto no al lavoro gratuito e fatto comunque delle riflessioni sulla precarietà, e anche un po' teoriche, no? Su questo aspetto. Il momento in cui si incontrano delle lotte che hanno riguardato il mondo del lavoro con un po' le realtà che hanno fatto parte delle origini di MIM, sono un po' l'inizio della storia del libro, cioè le lotte contro l'austerity. Prima appunto citavi le piazze di Roma, e quello è stato comunque un momento in cui forse uno degli ultimi grossi attacchi, poi ne sono arrivati ovviamente altri importanti al mondo del lavoro, però forse una cesura rispetto ad alcuni aspetti. E appunto stiamo parlando del 2011, quindi qualche anno dopo la crisi mondiale del 2008, e quella è stata comunque un momento storico per la nostra generazione, e dico nostra, da chi ha oggi 25 a chi ne ha 40, e comunque ha fatto parte della storia di Milano in Movimento in quanto espressione, in particolare in quel periodo, di alcune realtà, alcuni collettivi. Penso ai gruppi reddito che sono esistiti, un po' a Zam, un po' a Lambretta, in quei primi anni, forse fino al 2014, gli ultimi tentativi di fare dei gruppi reddito, insomma, poi chiaro, dialogare con i sindacati di base, tutte le loro problematiche, un'enorme difficoltà, forse non ci si è neanche provato per davvero, però un po' a ragionare sul lavoro, fino al 2014 come gruppi reddito ci si è provati, ecco, forse con poco investimento. 2015, cioè poco dopo Expo, e insomma poi tutto quello che è stato successivamente, però ecco, degli incroci li abbiamo avuti. Poi ecco, l'intersezionalità delle lotte sicuramente ci appartiene, però sicuramente con delle lacune, principalmente sulle riflessioni nell'ambito del lavoro. Io, se posso aggiungere una cosa, l'intervento di Davide mi ha acceso una lucina. Sempre sul 2015, che secondo me noi abbiamo preso il 1° maggio 2015 simbolicamente come uno spartiacque nella storia del movimento milanese e della militanza, nel senso che noi riteniamo che i fatti del 2015 non uccidono un modo di fare movimento, ma simbolicamente rappresentano una cesura. Dal mio punto di vista, perché ovviamente non mi arrogo di parlare per la redazione di Milano in Movimento, il 2015 con la questione della Grecia, cioè la Grecia messa in ginocchio e l'impossibilità di trovare un'uscita da sinistra alla crisi, è un altro elemento di cesura e frattura, nel senso che ci sarebbe stato un modo di uscire a sinistra dalla crisi, per svariati motivi questa cosa non è successa, e da lì si è aperto una prateria, una voragine alle destre populiste. Io penso che possa essere un'analisi mia individuale, ma abbastanza condivisa. Ne parlavamo anche ai tempi con Niccolò sulla questione greca. Lui di Grecia ne sa abbastanza. Se vuoi dire due robe, è un'imboscata. No, se vogliamo leggerla come analisi di fase, sicuramente, cioè, la Grecia ha rappresentato la vicenda greca e l'Europa e la Troica rispetto alla Grecia, indirettamente all'Italia, alla Spagna e il resto, ha rappresentato quella fase lì, ha rappresentato uno stop, una cesura in qualche modo. Però dentro la quale ci inseriamo noi come movimenti, eccetera, e l'incapacità di elaborare una risposta, eccetera. Ma io ho impressione che in realtà, qui poi entriamo in tutt'altri territori, ma ho impressione che in realtà da lì in poi è in qualche modo come dire, scomparsa l'opzione istituzionale di uscita a sinistra, ok? Cioè, quella roba lì ha rappresentato la morte della sinistra istituzionale come forza in grado di rappresentare una potenziale uscita a sinistra, cioè un governo del capitalismo di crisi, ok? Questo non significa che in realtà non sia stato, cioè, per quanto mi riguarda, e abbiamo in realtà osservato, c'è stata in realtà la nascita assolutamente magmatica, non uniforme, ma in realtà di sperimentazioni di uscita, potremmo chiamarla di sinistra, ma secondo me non è un termine che è in grado di raccontare abbastanza fedelmente quello che succede, ma quantomeno un tentativo di ricostruzione del tessuto sociale solidale nei territori e di auto-organizzazione dei territori, in senso di nella direzione di un welfare alternativo dal basso, solidale, autogestito. Cioè, questa cosa qua in realtà ha ricominciato a tra l'altro anche a nutrirsi delle forze che sono in qualche modo uscite dalla risposta istituzionale, perché non la ritenevano più in grado di essere di dare una risposta credibile, si sono rimesse in marcia e in qualche modo rimboccandosi le maniche, che nei propri territori hanno ricominciato a fare quello che deve fare una forza rivoluzionaria di sinistra, cioè, quindi c'è ricomposizione del tessuto sociale, solidale, eccetera. Cioè, poi è arrivata la pandemia e la pandemia ha offerto esattamente questa opportunità, cioè di ricostituire nei territori una risposta reale. Cioè, e i movimenti sono stati in grado, tra i primi, di rispondere a questi bisogni con le forze che erano già latenti, che erano già lì, e quindi che si sono semplicemente riattivate cercando una risposta di tipo diverso. E poi rimettendo in moto tutto un sistema per cui anche con un dialogo con le istituzioni diverso, fatto da un posizionamento diverso rispetto a quello che c'era prima, però insomma c'è, semplicemente è finita una storia che è quella del Novecento e l'illusione di poter governare il capitalismo dalle istituzioni. E come dire, si è rimessa in moto un'altra storia. Allora, io faccio un po' come i miei compagni di radio. Sarebbe bellissimo stare anche ore e ore a fare queste discussioni in radio, c'è spazio. No, adesso non si può. Anche perché proprio su questa tematica con te ogni tanto ci scontriamo dal 2015 in poi, dal primo maggio, cosa è successo, tutto si trasforma e si attuano tutte delle, magari proprio all'interno dei movimenti, pian pianino, magari non subito, un modo di fare politica e delle pratiche in maniera diversa rispetto a quello che c'era prima. Non è detto che sia per forza una cosa negativa. Vabbè, poi magari qualcuno o qualcuna ha qualcosa da dire in merito, ma allora approfitto in questo caso, visto che dicevate anche che i contributi, tu Nick dicevi, in questo testo abbiamo fatto parlare anche le persone che hanno fatto queste lotte, le hanno agite in prima persona e alcuni contributi arrivano anche dall'esterno, no? E quindi a questo punto io farei la telefonata a casa, perché abbiamo l'ospite a sorpresa che finora è rimasto non conosciuto per il pubblico, e quindi chiamerei il nostro amatissimo compagno che ci sta ascoltando, tra l'altro me l'ha detto, compagno Cegna, che magari si addentra sulla tematica, nella tematica della metropoli. Ci sono. Ciao, grazie dell'invito. Stai bene? Ah, dai, ci sopravvive. Ascolta, ti abbiamo lanciato così all'interno di una discussione che stavo ascoltando. Bravissimo, per magari farti parlare un pochettino della tematica della metropoli. Cosa ne dici? Va bene, prima di tutto volevo rispondere a Teo, che comunque dietro al bar nella sede abbiamo passato interi lunedì pomeriggio, solo che lui non c'era perché faceva il bottegaio in Feltrinelli, mentre in tre o quattro stavamo a cercare di fare delle cose per Milano in Movimento prima dello sgombero di Zamma. Menzogne. No, vabbè, detto questo, credo che il dibattito che avete aperto sia sicuramente molto interessante, e in questo sta il ruolo che media alternativi dal basso, non diciamo senza padroni e padrini, agiscono, muovono e dibattono. Io questo, in questo credo che Milano in Movimento in questi 10 anni a fase alterne, e non lo dico come critica ma come anche metodo e merito di tutti questi soggetti che, muovendosi dal basso, vivono anche uno delle spinte che i movimenti danno. Non possiamo far finta che soggetti, io faccio anche l'esempio per quello che faccio nella vita di lavoro, che non farei senza Milano in Movimento, non ho nessun problema a dirlo, nel senso che prima di Milano in Movimento mi occupavo di radio dal punto di vista solo ed esclusivamente dell'intrattenimento, avendo fatto parte per i primi 3-4 anni di quell'esperienza mi sono avvicinato anche al mondo del giornalismo, e se oggi scrivo anche per il Manifesto e per altre cose, oltre a lavorare alla Radio Onda d'Urto, lavorare con la Radio Popolare, anche sicuramente grazie ad aver attraversato una redazione come quella di Milano in Movimento. Penso che queste realtà vivano anche molto in base ai tempi, alle fortune e alle sfortune che i movimenti vivono e generano, e anche dalla capacità di impreziosire le città con le loro iniziative e i movimenti. In questo penso che questa sia una fase abbastanza difficile per tutti, forse come elemento di narrazione molto propizia per potersi fermare a ragionare. Quindi ma è questo un buon momento perché un libro sui movimenti possa uscire, e devo dire, mi rifaccio a quello che diceva anche Giulia un attimo fa, le cose cambiano. Ecco, se io devo fare un accenno di critica un po' a tutto il nostro mondo, è che secondo me ultimamente non siamo così veloci ad accettare il cambiamento e a cambiare anche noi. E non è un caso che post pandemia, per quanto forse anche dire post pandemia è abbastanza sbagliato, stiamo un po' tutti e tutto in giro per quantomeno per l'Italia, ma non solo, facendo molta fatica a capire come entrare a gambe tese dentro dei processi che, scusate, si faceva l'esempio della Grecia, hanno portato in qualche modo ad avere colui che ha ucciso la Grecia, perché insomma quello che è stato generato con la Troica alla Grecia è stato un tentativo di omicidio di massa di un popolo, essere il nostro Presidente del Consiglio, e colui che abbiamo combattuto con Expo essere per due volte Sindaco di Milano e appoggiato in queste elezioni anche da una gran parte di compagni e compagni. Non voglio entrare in un discorso di critica, ma dobbiamo vedere anche che i cambiamenti passano anche da queste condizioni. In questo siamo molto lenti, secondo me, e dobbiamo dircelo, a capire che cosa sta succedendo nel mondo. E quando dico che siamo lenti, dico che sono lento anch'io, non è che ho nessun patentino da dare. In questo sicuramente vive una metropoli, come fa Milano in Movimento, però è un privilegio, perché io credo che mai come in questo periodo sia proprio dentro i tessuti metropolitani che si sviluppano quelle trasformazioni sociali, politiche, economiche, accennate anche da Nicolò sulla trasformazione del mondo del lavoro e con dei nuovi anche legami di conflitto con il capitale, che non passa più solamente dal lavoro, ma che ormai passa dall'ambiente, dalla riproduzione del patriarcato, passa dalle forme di colonialismo, passa da tutta una serie di questioni che col neoliberismo si sono rimischiate e ne fanno una forma di governo del territorio. In questo ci metto anche il decoro urbano, le forme di omologazione delle popolazioni, il fatto di creare città da vivere e non da abitare, città per i turisti e non per chi appunto lavora o solo per chi lavora per brevi frangenti. Io credo che questa possa essere una sfida molto importante per Milano in Movimento, cioè indagare da un punto di vista sociale, politico ed economico che cos'è la metropoli oggi, come la metropoli, e qua su questo devo essere anche molto netto, di Milano, che è l'unica metropoli di questo paese, è l'unica città europea di questo paese che chiamiamo Italia, perché Roma e Napoli sono soggetti completamente differenti, Firenze e Venezia sono città turistificate e basta, e del turismo, e non vivono delle altre dinamiche, così come Torino è una città troppo piccola e posizionata in una maniera secondaria per poter essere, per avere il ruolo, lo stesso ruolo che Milano svolge. Bene, oggi proprio anche all'interno della metropoli, lo studio della metropoli, capire come le città e le metropoli sono i soggetti che determinano una parte, non la determinano tutta, ma una parte importante di sviluppo del capitalismo, essere un media indipendente, fatto anche da precari e precari, cioè da chi vivono anche la drammaticità delle scelte del capitale, è una sfida importante. Io auguro che nei prossimi 10 anni di Milano in Movimento non sia solo un potente, fantastico strumento per me, per capire quando c'è un'azione di movimento, delle realtà che lo compongono, ma anche un qualcosa che possa generare una nuova analisi critica per non essere in ritardo sulle trasformazioni che viviamo, ma ritornare ad anticipare. In questo io credo, così faccio anche un complimento a me nel movimento, che per esempio il dibattito che si è generato sulla prima elezione di Sala sulle pagine delle media, credo che fosse proprio il post-Expo 2016, fu super interessante secondo me. Aveva degli accenni critici e di criticità a quello che Sala avrebbe fatto e poteva fare, assolutamente interessanti e innovativi. E in questo penso che per esempio quella sia stata una cosa molto potente di Milano in Movimento, come altre cose che sono state fatte anche in quel periodo in cui ad attraversare la sua redazione non erano solo militanti degli spazi, ma anche persone che venivano da altri contesti, cioè sicuramente persone che avremmo definito di sinistra. Ci sono stati degli altri momenti, come dicevo, magari anche più difficili, però sicuramente è un portato importante e nelle metropoli di oggi, nelle città di oggi, credo assolutamente necessario. Perché? Perché io ho anche scritto un libro sul tentativo di cercare di capire le città, un libro che parte da Milano e analizza anche il ruolo di Sala, non solo come sindaco della città, ma anche dentro una rete C40, che secondo me sarà uno dei prossimi percorsi molto delicati per il capitalismo internazionale. Basti pensare, avete citato prima Macao, da cui poi possiamo anche dire che sia la storia di ZAM, che è quella di Milano in Movimento, sono legate quantomeno dallo stabile, non tanto al collettivo, quello di Viale Molise per la TAS di cui avete parlato. C40 sarebbe stata anche la scusa dello sgombero di Macao, molto probabilmente, perché il Comune di Milano ha deciso di partecipare a un bando proprio realizzato dalla rete di Metropoli, che ha dato alla città 2,4 miliardi di euro per rifare tutta l'area dell'Orto Mercato e renderla energeticamente e ecologicamente in fascia alta, e questo molto probabilmente alla lunga avrebbe generato lo sgombero di Macao. Stessa cosa sta rischiando di subire il centro sociale SCUP a Roma, che per un bando similare prenderà i soldi da questa rete di metropoli e per una trasformazione urbana. Come per dire, le metropoli cercano di superare in questo momento il ruolo stesso dello Stato-Nazione, ma anche le reti tra Stati e Nazioni, andando a una velocità diversa proprio nella captazione di capitali e costruzione chiama costruzione, per farla molto rapida, come grande evento chiama grande evento. Non è un caso che Milano passa dall'Expo 2015 alla cogestione delle Olimpiadi del 2026. Allora, tutte queste cose che sono sicuramente importanti sono comunque probabilmente ancora un attimino indietro rispetto alla vera sperimentazione che si sta facendo nelle città. E quindi, ripeto, io credo che se più che guardare indietro, a me ultimamente piace guardare avanti, e se devo fare un augurio di Milano in Movimento, a Milano in Movimento, che abbia la capacità con la sua redazione e anche con la capacità di coinvolgere pezzi esterni di essere un importante elemento per l'analisi della città di domani. Ho finito. Poi... Sì. Grazie Andre, è stato molto interessante. C'era Teo che si metteva le mani in faccia, non so, penso abbia qualcosa da dire. No, non era riferito... Ero ironica. Andre, non potevi vedere, quindi sono altre menzogne nei miei confronti. Sento, devi alzare un po' la voce. Mi senti? Adesso sì. Ok. Erano le prospettive che lo preoccupavano, secondo me. No, hai messo un sacco di carne al fuoco, quindi cerco di fare alcuni passi indietro e magari qualche passo avanti, e poi magari provo a dare la parola a qualcun altro. Allora, sicuramente parlavamo del 2011, l'anno di nascita di ZAN, l'anno di nascita di Milano in Movimento e l'inizio di un ciclo politico a Milano, che è il ciclo politico del centro-sinistra. La metropoli quindi viene amministrata e sarà amministrata nel tra 5 anni da 15 anni da una sinistra compatibile col capitalismo attuale, ma estremamente diversa dalla destra reazionaria della Moratti. Quindi probabilmente le intelligenze migliori del capitalismo progressista, tra virgolette, quelle che appunto poi guidano C40, che è questa rete di città e metropoli che si sono messe appunto in rete e creano dei bandi internazionali, come per esempio quello su Viale Molise di cui parlava Andrea. Parlando sempre di metropoli, passando dal 2011 al 2014-2015, anzi 2013-2014-2015, io con Andrea ho condiviso un tetto di una resistenza, che è quella dello sgombero di Violgiati, e secondo me gli anni 2013-2014-2015 in qualche modo sono anche un elemento di passaggio è significativo nel rapporto tra gli spazi sociali e le amministrazioni comunali, nel senso che Zamma, che in quegli anni si è fatto un nome, si è fatto anche una spendibilità politica all'interno della metropoli, va a scontrarsi con la giunta Pisapia sulla questione degli spazi, ne esce in qualche modo sconfitto, perché questa è una cosa innegabile, nel senso che sia uno sgombero nel 2013 e sia uno sgombero nel 2014. Nell'autunno del 2014 arriva qui a Milano Sud, in periferia, e mette in piedi una riflessione sulla comunità. Io ricordo un interessante documento di analisi politica, una cosa che insomma a Milano non si vede tanto spesso ultimamente, che è Indice di persistenza del 2016, in cui vengono annunciate delle riflessioni e delle scelte politiche, probabilmente anche come conseguenza di un ciclo di sgomberi e di scontro con l'amministrazione della metropoli. Da quel documento sono passati 5 anni, io vedo che c'è qua Massimiliano che fa finta di niente. Vorrei chiedergli, visto che lui ha scritto per il libro, appunto sull'esperienza di Zamma, a che punto è la sperimentazione di quella prospettiva che si è aperta nel 2016. Ma sono state dette un sacco di cose e potremmo andare avanti ore, quindi lo dico come premessa, magari non voglio dilungarmi troppo, però credo che in questa storia, perlomeno nella gran parte di questa storia in cui si è nati, diciamo, anche in uno stesso momento, nello stesso momento storico soprattutto, perché poi all'epoca si erano un po' raccolte anche altri soggetti che non solo avevano occupato ZAM, ma che in generale, insomma, la rete provava ad ampliarsi e provava a costruire quella storia che poi viene in parte raccontata dal libro, con i diversi contributi, insomma, l'analisi della città. Sicuramente come nasce questo spazio, come rinasce in una qualche forma questo spazio e quello che è stato poi quella che è stata la vita in queste mura è figlio e figlia di quelle che sono le politiche di questa città, le politiche che i movimenti hanno attuato in questa città, quello che non tanto per me, perlomeno personalmente, il 2015 ha costruito come spartiacque, ma quella che è l'uscita, per quello che riguarda la collettività di cui faccio parte, che è quella di ZAM, l'uscita da una sorta di stato perenne, emergenziale, nella misura in cui i tempi anche un po' delle grosse mobilitazioni, i tempi in cui si cercava di non tanto di costruire comunità, ma di modificare l'esistente in una forma anche più, più ampia e più, se vogliamo dire, anche partecipata, in questo scarto in cui l'emergenzialità fondamentalmente non ha più i frutti che ha dato un tempo nel post Genova, l'Onda, insomma, eccetera, eccetera, si è cercato tutti insieme le persone che molte delle persone che sono sedute anche qui ora, di sedersi e comprendere quale fosse la nostra identità o quale fosse la nostra non identità, nel momento in cui l'eterogeneità del gruppo, la volontà di costruire un nuovo gruppo in questo luogo specifico, che ha sicuramente stimolato, aiutato e contribuisce tuttora alla costituzione della comunità, si è deciso di prendersi il tempo per capire qual è l'orizzonte possibile. E ovviamente tutto l'aspetto della comunità, l'aspetto di come i soggetti come noi, collocati in questa fase storica, cioè collocati nella fase storico-politica in cui c'è una grossa differenziazione, ne parlavamo la scorsa assemblea, tra l'altro per altri motivi legati a un festival che faremo qui a Milano l'anno prossimo, di come il soggetto, la persona, la crisi, chiamiamola così, del militante, nella misura in cui la militanza diventa, è stata perlomeno per gran parte di noi, un'attitudine di vita, gran parte della nostra vita, mentre invece in quel momento storico, ma anche in questo momento storico, il militante diventa una figura diversa. Se vogliamo, c'è quasi una precarizzazione del militante, della forma, visto che si parlava di lavoro, della forma di come i militanti e le militanti vivono, attraversano questi spazi, le lotte e così via. Questo io credo non significhi, e da qui parte la nostra riflessione, non significhi che le persone hanno un profondo disinteresse per la politica strutturale. Credo che le forme con cui attraversano la politica, con cui la politica si dà nello spazio pubblico, quindi tutto il contesto dei social, eccetera, eccetera, sono forme diverse. E io su questo, magari rispetto a quello che diceva Andrea, non sono in disaccordo, nel senso che la nostra velocità di azione spesso e volentieri è più lenta, ma è più lenta a volte perché decidiamo che deve essere così, a volte perché invece siamo noi che nei nostri processi anche diciamo orizzontali si fatica molto di più a condividere una scelta piuttosto che dichiararla così com'è. La scelta di non seguire la velocità, ad esempio, di tutta la macchina capitalista è una scelta voluta e che viene scritta anche rispetto a quella che è la nostra pratica politica. Tutte queste scelte e tutta questa nuova forma di militanza, per quanto riguarda noi, hanno trovato perlomeno casa in questo luogo, in questa comunità, in questa collettività, e di conseguenza quello che è stato necessario fare è stato, come si faceva un tempo, ma credo che sia una buona abitudine, scrivere nero su bianco che cosa siamo e dove proviamo ad andare. Ovviamente questo non è un atto che costruisce un'identità rigida, cioè è un processo fluido in cui quello che siamo, quello che cerchiamo di fare, soprattutto per il raggiungimento dei vari obiettivi, sono sempre via via discussi e trovano forme anche diverse, anche innovative, e questa è, io credo, uno degli esercizi necessari per poter leggere quella che è la nostra città, quindi questo poi per cercare di chiudere e tornare un po' a quello che si raccontava prima, per cercare di leggere che cos'è la nostra città, chi siamo noi, come ci comportiamo noi all'interno delle nostre vite private e del nostro contesto politico. E per fare questo tipo di esercizio, quello che questo esercizio richiede è un ambiente e una costituzione di comunità, perché spesso e volentieri l'accelerazione invece di grandi processi politici, che poi portano a dei cambiamenti, sì, no, questo sta un po' anche questo con Teo, ne discutiamo spesso, con Teo discutono un sacco di persone, si vede che è molto molto persistente nel riuscire a mantenere la posizione. Su questo personalmente è un plauso per quanto li riguarda, a volte non è semplicissimo, però è così, è bene che ci siano anche questi monumenti della persistenza rispetto ad alcune posizioni che sono state parte della nostra storia, che quindi sono legate alla legittimità di quello che sono. Quindi scusatemi, mi avvio alla conclusione di quello che volevo dire, per rispondere un po' a tutto quello che è la nascita e quindi la produzione di questo documento e le successive produzioni che ci saranno, io spero sempre più vivide. Quello che noi cerchiamo di fare e che cercheremo di fare in futuro è continuare a costruire questa storia, continuare a costruire questa comunità, e noi crediamo che questo tipo di attitudine rispetto anche all'attualità, alle cose, ai cambiamenti poi radicali all'interno dei territori e successivamente su vari livelli all'interno di tutto quello che accade e che può modificare l'esistente, siano una delle cose che possiamo mettere in campo, e lo diciamo con un dato di materialità più che di volontà di superare tutti i livelli decisionali e di conseguenza arrivare ad un punto in cui poi in una qualche forma quello che diciamo e quello che facciamo sono il reale dato di cambiamento. Per cui questo è un po', poi ovviamente parlo io in quanto ho scritto io il testo per MIM e di conseguenza, però quello che volevo dire è che tutte le persone presenti qui hanno coscienza e hanno contribuito tanto quanto me a costruire questo aspetto di comunità, e questo è fondamentale ed è forse il tassello che ci manca per migliorare le nostre condizioni di vita precaria e non solo, ma anche di comunità. Ringrazio Macio di avermi dato della Guardia Rossa dell'area, per me è un titolo di merito. Duro come l'acciaio, lega di fabbrica. Vabbè, allora aggancio un po' alle cose che ha detto Massimiliano. Parlava appunto di una sorta di coerenza e continuo a interrogarsi su come siamo, sia a livello di militanti, ma poi portare questa appunto attitudine a tutti i livelli della nostra vita, e appunto per parlare del reale, di ciò che accade. E secondo me, adesso altra frecciatina a Teo, perché ci si discute con Teo, è per esempio il femminismo, non una di meno, ha continuato a parlare della tematica del lavoro, così, giusto per, però vabbè, questo no, sto scherzando. E niente, mi aggancio a una delle altre grandi tematiche del libro, ma ovviamente non solo del libro, una delle tematiche delle lotte che ha attraversato gli ultimi anni, in particolar modo gli ultimi anni Milano, ma non solo, ed è quella della tematica di genere. E qua lancio la parola ad una delle mie compagne. Cosa mi suggeriscono? Ah sì, perché scusate, dopo scontate delle cose, è vero, non dovrei, nel testo ha contribuito, nel libro di MIM, hanno contribuito con un testo proprio sulla tematica di genere, il collettivo Degenerazione, che se vuoi faccio io un po' l'introduzione. No, brava Gioia, tieni. Ormai è andata. Vabbè, in realtà... Non lo so, io sinceramente non ho preso parte alla stesura del testo che Degenerazione ha scritto per MIM, e non racconterò in retroscena perché li risparmio tutti. E quello che però mi emerge da questo, dal testo, sono un po' tutte le non tutte, però le principali iniziative, percorsi che dal 2017-2018 abbiamo dato vita, E si parla, beh, di marce, si parla di vari festival come quello sul consenso e sulla mascolinità egemonica. E insomma, io in realtà volevo un po' lanciare a voi la palla, a voi della, di Mim della redazione. Davide ride. E, perché io mi chiedevo, sia riferimento alla tematica di genere, sia anche riferimento a tutte le varie altre tematiche che sono state affrontate a Milano da che abbiamo memoria e da che comunque da 10 anni Milano in Movimento esiste, mi chiedevo quali fossero le contaminazioni che ci sono state, se ci sono state, in che modo hanno funzionato tra MIM e Milano e il mondo. Un po', ecco, la mia domanda è su che cosa avete imparato in questi 10 anni e magari se potete fare un po' un focus sulla tematica in questione. Allora, io darei prima la parola a Niccolò, sveliamo l'arcano. Allora, il capitolo del genere si apre con un testo del 2015 che all'epoca creò molto scalpore perché eravamo ancora tanti maschietti alfa, ipermilitanti, ipermilitaristi, cazzuti, per cui il soggetto rivoluzionario tendenzialmente doveva essere solo bianco, etero, magari operaio, insomma proletario, magazziniere. Niccolò scrisse un testo non firmato, il testo apparve come redazionale, che si chiamava Caro uomo a una dimensione, ovviamente rivolto in modo provocatorio a quelli che erano i nostri compagni con cui avevamo fatto politica, botte, occupazioni, vita per più di 15 anni, che creò grandissima polemica ma anche riflessione e passaggi di, come si sarebbe detto un tempo, equilibri più avanzati. E adesso passo la palla a lui, ma in qualche modo anticipò quello che poi sarebbe stato il ciclone di Non una di meno 2 anni dopo. Poi su questa questione io ho un'altra roba da dire a livello di analisi autocritica, però prima sentiamo Nick. Vabbè, diciamo che il pezzo, se non l'avete letto, in realtà vabbè, l'ho scritto e condiviso in redazione perché per me è una cosa fondamentale che ogni cosa che usciva su Milano in Movimento fosse condiviso, perché fosse il senso di una condivisione collettiva e non solamente, cioè, come dire, un'espressione individuale, no? Un lavoro individuale. Ovviamente quel pezzo lì in realtà parlava prima di tutto a me stesso e a quelli come me, nel senso c'è, e in qualche modo registrava un cambiamento avvenuto nella mia vita, nella mia prospettiva rispetto alla concezione della militanza, la concezione dell'attivismo e concezione anche proprio della vita, della visione del mondo e delle cose, dei rapporti di forza, eccetera. Ovviamente condizionato dalla mia biografia, quindi io assolutamente parlavo a me stesso in quel pezzo lì, quindi c'è assolutamente permeato da questa mascolinità che potremmo tranquillamente definire tossica, ma che faceva parte del DNA e del linguaggio, delle pratiche dell'antagonismo militante, un certo machismo, un certo culto della violenza, un certo culto della sopraffazione. Evidentemente poi per ragioni personali, ovviamente non ultime, ovviamente anche, come dire, cioè l'aver incontrato una persona che fa parte tuttora della mia vita, che ha in qualche modo condizionato, mi ha aiutato, mi ha aperto un mondo e un linguaggio, una visione di tutt'altro genere, ovviamente mi ha messo nelle condizioni di mettermi in discussione. che è cosa assolutamente vitale, bella, lo suggerisco a tutti quanti. E quindi c'è quello che Teo adesso pomposamente diceva, presentava come un dibattito, in realtà partiva da un fatto assolutamente personale, da un punto di vista, una riflessione assolutamente personale, di vissuto personale. Raccontava ovviamente un qualcosa che avveniva all'interno della mia esperienza, ma che voleva ovviamente essere condivisa e che volevo condividere con i compagni con cui, maschi, con cui avevo vissuto e che avevano condizionato la mia vita fino a quel momento lì. Quindi è indubbio che quell'orizzonte lì, quella composizione lì, aveva fatto anche il suo tempo. Cioè, quindi cioè, ormai stava montando una marea che è, che è la maniera assolutamente corretta, di, cioè più efficace per definire l'onda transfemminista che è emersa negli anni e che, badate, non ha ancora dato segni di come dire di arretramento, come dire, no? Cioè di sconfitto, cioè non si ferma, insomma. Quindi questo è un dato significativamente significativamente importantissimo sull'evoluzione dei movimenti. Quindi cioè, io ho semplicemente registrato un cambiamento che è avvenuto a livello mio personale ed è se vogliamo interessante, come dire, importante anche che a livello, a partire dalle proprie riflessioni, dalle proprie biografie, dai propri vissuti si racconti un qualcosa che invece ha un respiro più ampio, che vuole parlare un po' a tutti, perché c'è un aggancio. Sappiamo benissimo che una delle tecniche narrative più efficaci è arrivare a partire dalle biografie personali per estrapolare un senso più generale, no? Cioè, c'è la capacità di riconoscersi dentro una storia. E quindi, niente, questa roba qua, quel pezzo lì è nato dentro questo contesto qua. Voleva, il tema era, cioè, come dire, lo stile era volutamente provocatorio, e questo non significa che fosse completamente risolta la situazione, ancora mi ci confronto ancora adesso, però faccio proprio la lezione del femminismo, del partire da sé e dal problematizzare il proprio vissuto, il proprio posizionamento nel mondo, insomma. E quindi c'è questa cosa qua, è una cosa ovviamente irrisolta, nel senso che sono un maschio bianco, 44 anni, qualche privilegio ce l'ho, lo riconosco, ho vissuto certe esperienze e quindi c'è, problematizzo queste esperienze e questo vissuto, e quindi questa cosa lo rimando ai compagni e le compagne, compagno anche, come dire, per cercare di condividere e socializzare questo tipo di cambiamento, no? Cioè, ovviamente questa roba qua è una porta che si apre su un mondo che è quello del movimento transfemminista, che volente o nolente ha cambiato proprio, cioè, come dire, la grammatica dei movimenti. Ora ne siamo immersi completamente, ma qualche anno fa non era così, e quindi ci voleva questa onda che in qualche modo anche spazzasse via certi rudimenti, certi relitti novecenteschi di cui semplicemente non erano più efficaci per affrontare il mondo. Certi linguaggi, certe pratiche non erano più efficaci, al di là del fatto che fossero giuste o sbagliate, non erano proprio più efficaci, erano proprio superate dalla storia. Nel senso che cioè, il movimento transfemminista ha semplicemente fatto emergere delle nuove soggettività e ha completamente illuminato un mondo sulle nuove fratture conflittuali che ci sono nella società, che prima erano soffocate dentro una dicotomia capitale-lavoro e basta. Ora, cioè, in realtà la cosa è molto più complessa. Il movimento transfemminista ci ha aiutati a capire e a intercettare e quindi a costruire alleanze, a rivedersi nelle oppressioni che vivono i soggetti di tutti i tipi di generi e di tutti i tipi di posizionamento sociale, riviverli, rivedersi nelle stesse oppressioni e costruire alleanze per progredire, per andare avanti. In questo ovviamente c'è, ripeto, la grammatica del maschio bianco, della working class bianca, eccetera, non era più adeguata ad affrontare i conflitti moderni, i conflitti attuali e della società che si sta realizzando. E quindi, cioè, il movimento transfemminista ci ha dato una nuova grammatica e noi siamo qua a farci ibridare attraverso queste parole, questi nuovi linguaggi. Allora, ricordo. Allora, l'articolo di Nicolò uscì qualche settimana prima del No Expo Pride, che pur essendo essendo stata una manifestazione non particolarmente partecipata a qualche centinaio di persone, probabilmente in nuce è stata molto più significativa del primo maggio No Expo, perché era, come spesso capita, un aprirsi di un tema che poi sarebbe esploso, mentre il primo maggio No Expo era la fine di un'esperienza nata con l'onda che proprio in quel momento esplode e finisce. Quindi questo è significativo, nel senso che non sempre la partecipazione è sinonimo della qualità politica di una proposta. Per quanto riguarda la tematica di genere, l'ho già detto più volte, io per molti anni non me ne sono assolutamente interessato, e il 2015 è stato un momento di inizio di interessamento da parte mia. Per quanto mi riguarda, l'epifania è arrivata leggendo un libro. Ovviamente, essendo io un vetero, non poteva che essere un libro sugli anni 70, un libro sulla storia di Avanguardia Operaia, dove viene raccontato come a metà degli anni 70 le compagne iniziano a porre nei momenti pubblici il problema delle violenze esercitate dai compagni della struttura su delle compagne della struttura, e la reazione durissima della dirigenza di Avanguardia Operaia nei confronti delle donne e di questa problematizzazione. Ecco, se posso fare un'autocritica, che poi è sempre una forma di, qualcuno la chiamerebbe dialettica, quindi forma di crescita, sicuramente di fronte a quella che Nicolò chiamava l'ondata che travolge, che è l'ondata femminista, io mi sono sentito un po' il difensore a tutti i costi delle strutture costruite con tanta fatica e costituite. Lo dico con grande sincerità, non sono uscito ancora da questa contraddizione. Sarebbe facile e paraculo un po' dire che sono un maschio risolto, e invece non è così, continuo a interrogarmi e domandarmi e pormi delle questioni, però questo è stato un passaggio sicuramente significativo della mia esperienza militante nell'ultimo anno, direi. Se Davide vuole dire qualcosa. Brevemente, dato che insomma è stato un po' snocciolato il tema, volevo aggiungere una riflessione ricollegandomi a un po' al tema della crisi / messa in discussione di una certa forma di militanza che è stata un po' individuata come nel 2015. Questo articolo, ma in particolare il No Expo Pride, è evidentemente un segnale anche di questa messa in discussione di una certa forma di militanza, quindi diversi binari che vanno nella stessa direzione. Forse non a caso, personalmente, proprio in quegli anni ho attraversato il collettivo universitario Bicocca, che ha dato abbastanza centralità a queste tematiche e, un po' come per Nick, personalmente mi hanno cambiato e dato la possibilità poi di affacciarmi alla realtà di degenerazione frequentandola per un periodo, insomma, di qualche anno. E tra l'altro, dentro tutta questa storia c'è una collettività femminista, che è la collettività di Ambrosia, che ha fatto parte della storia di, insomma, di questa rete di spazi sociali, di collettivi, e successivamente poi invece appunto Degenerazione. Quindi ecco, un po' un testimone che viene passato da un lato e da un altro lato diversi binari che possiamo individuare rispetto al grande tema del cambiamento della militanza nella città, ma oltre anche, no? Perché poi recentemente discutevamo un po' su quello che sta succedendo a Glasgow, nelle piazze di, insomma, contro la COP, e anche in questo caso di riflettere sulle modalità in cui si scende in piazza, ci sono dei collegamenti, ecco. No, io due robe, poi chiude Giulia, che è la gran visir della serata. Sì, ma sono un po'... No, allora, le prossime presentazioni del libro saranno a Lemo il 18 novembre alle 18:30, e parleremo appunto del che fare dopo Glasgow. Ci saranno alcuni compagni che sono stati lì appunto della redazione di Milano in Movimento, e quindi faremo una riflessione sulle tematiche della giustizia climatica, di cui appunto c'è anche un capitolo all'interno di questo libro. Poi ci sarà una presentazione il 25 novembre a Librosteria in via Cesariano, e altre ne stiamo trattando. Il libro è lì, è carino, quindi non fate i timidi, andate a comprarlo, quindi consiglio per gli acquisti, e passo il pallone a Giulia per la chiusura. Sì, allora, per chiudere volevo intanto subito ringraziare Andrea Cegna, che è ancora al telefono e ci sta seguendo da là. Grazie Andrea anche per il tuo contributo, sono state anche delle riflessioni, direi da spunto. Ma si sente o no? Sì, sento, okay. Sento. E grazie per esserti unito a noi anche se in forma telematica, e speriamo di vederci presto. Speriamo. E intanto allora ti saluto e ti lascio libero, e niente, concludo anche questa piccola presentazione. Sono piacevolmente anche colpita dagli ultimi interventi proprio sulla tematica di genere. Che anche su questa tematica io e te abbiamo scornato tantissimo, però credo e ribadisco l'invito, che a parte il fatto che sono ultra d'accordo con te, Nick, sul fatto di è molto più facile arrivare alle persone quando metti in campo te stesso e tiri in campo forse l'empatia, o parli di qualcosa che può essere facilmente comprensibile, ed è per questo che io sono, vabbè, non mi sto ovviamente fregiando di un'altra qualità, ma io non sono capace molto a parlare in politichese, e quindi riesco a trovare più facilmente una sintonia con chi parla papale papale, e quindi poi, essendo anche una delle pratiche più importanti del femminismo in questo momento storico, che degli uomini si mettano così tanto in discussione, o perlomeno mettano in campo se stessi così, io credo che sia qualcosa di importante, perché, come dice anche tra l'altro un altro uomo, che io cito tantissimo, il femminismo serve anche agli uomini, quindi spero che in tanti possano seguire questo esempio. E troviamo dei momenti di confronto anche così su tutto, non soltanto sulla tematica di genere, perché anche tutto il primo pezzo è stato, ripeto, la radio ha un sacco di spazio per programmi. E basta, vi ringrazio, è stata una presentazione molto, molto bella, densa, profonda, interessante. E comprate il libro, è laggiù. Chi ci sta seguendo da casa può magari al limite presentarsi ad una delle altre presentazioni, o il 18 o il 25, visto che brava, le ho già imparate, oppure vi ascoltate il podcast, scusatemi, sì, devo farla... il podcast lo trovate sul sito di ZAM, www.zam-milano.it, nella sezione radio podcast. Non sarà subito, Teo, non arriva già domani. A presto. Manda la musica.